No tengo edad, no, no, l'età. Gigiola Cinquetti, Patricia Carli, 1964. La canción del Topo Gillo, una cantante presentadora de la televisión italiana, debuta con Patricia Carli. Es una cantante italo-belga en esta versión de Sanremo. También se hizo famoso el So Happy a dúo con Giorgio Gaber. Y luego, Passerà, Alejandro Baldi, 1994. Un éxito muy conocido en Italia. Je suis à toi, je suis à toi. Oh la vie, c'est près de toi. Que j'ai trouvé le bonheur, mon horizon, ma passion et mon envie de croire en toi et pouvoir te rendre heureux. C'est bon de vivre quand on aime comme je t'aime. C'est bon de vivre, de crier au grand jour ce bel amour. Je suis mon amour et mes 20 ans tu m'as donné. Que désirent les amoureux. C'est bon de vivre, de trouver son je t'aime. Dans le je t'aime de celui que l'on aime. Et pour toujours, je suis à toi. Pour la vie, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours, mon amour, mon amour. Le canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Son le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta coglierle, ce n'è una anche per te. Che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie. Sono inganni come pillole della felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà, passerà, passerà. Se un ragazzo e una chitarra sono lì come te,

votare e dire no. Bisogno di campare, dire sì. E cerchi l'evasione più banale. Goffredo Orlandi, canta Marco Masini. Se ti avessi lo sai, capirei la mia vita. Coprendo dentro di me con il senno di poi che ogni scelta sbagliata mi conduceva da te. Così mi immagino già il tuo sorriso e vedo accendersi noi allo stadio in un bar, in un gesto affettuoso che non ci capita mai. Vorrei regalarti un cielo d'agosto che fa da cornice a una stella che va, un sole nascosto che nasce da dentro e ti segna il confine della tua libertà. Quel suono leggero di un nome importante, le ali di un uomo volante, per non nascondermi mai, dentro ai rimproveri miei. E se tu fossi qui avrei anche il coraggio di innamorarmi di lei, per parlarti così come infatti già faccio, anche se non mi ascolterai, però saresti il mio unico orgoglio, la rondine che torna da sé. Vorrei regalarti un mondo diverso che ha fatto la pace con la sua crudeltà, quel giusto rimorso che nasce sbagliando e conferma la forza di ogni fragilità, l'anarchico istinto. Uomo volante per arrivare più su, cercare la tua margherita di questa piccola vita, dove più vero sei tu, evitando ogni strada sbagliata. Io vorrei regalarti l'infinito che dà quel tenero abbraccio di un padre. Uomo volante, anche se tu non verrai, saprà nel cuore chi sei.

vorrei capire l'uomo che sei, come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi, come saprei richiamare gli occhi tuoi, incollarli ai miei, emozionando sempre più. Escuchaban a una compositora, cantante y locutora italiana. Gran voz. Nos queda una hora más de Sanremo. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima. E se ti penso tu sei un'anima. Ma forse questo temporale che mi porta da te. E lo so, non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto fugga torno sempre a te. Thank you.